per cercare di far scegliere il gruppo dirigente, in questo caso il candidato leader, alla gente e non ai funzionari di partito. È quindi una idea culturale che riprende un concetto di rappresentanza politica che, insomma, sarebbe anche appassionante per gli addetti ai lavori stare a discutere. In altri termini, detta fuori dal politichese, significa far sì che per 3 mesi il PD, in questo caso, io poi spero che le faccia anche il PDL prima o poi, ma questo non riguarda me e ciascuno pensi a se stesso, diciamo, il PD possa dire: queste sono le idee per l'Italia su questi temi, sull'ambiente, sull'innovazione, sull'economia. Queste sono le idee che i vari candidati hanno e scelgano i cittadini, quindi sono non una rivendicazione di qualche politicante in carriera, e sono l'idea che i cittadini possono essere i protagonisti della politica. Ecco perché ci tengo molto. Comunque lei ci tiene molto, e quando e qualora ci saranno, o quando ci saranno meglio, Renzi ci sarà nelle primarie? Sì, a condizione che siano primarie libere, vale a dire che non ci siano tutti i giochini per non far partecipare alcune persone, che siano aperte e che siano realmente democratiche, cioè non siano un concorso di simpatia o di bellezza per cui il programma l'hanno già scritto e poi si deve soltanto decidere chi lo interpreta, con un copione già scritto per cui c'è soltanto da dare il casting all'attore giusto, da fare il casting per l'attore giusto. Se saranno primarie libere, aperte e democratiche, noi porteremo tutto il nostro entusiasmo e anche un po' di idee sul futuro del paese, perché secondo me la fase che stiamo vivendo, che tutti definiscono molto tecnica, no? Per cui si parla di spending review, si parla di grandi temi internazionali, di misure antispread, in realtà è una fase, a mio giudizio, poi può darsi che sbagli, per carità, in realtà molto politica. La spending review, per definizione, è la cosa più politica che c'è, cioè se una famiglia sta sul limite del non riuscire a mantenere tutte le spese, è evidente che deve fare delle valutazioni e delle scelte, non è che chiama un tecnico per dire dov'è che risparmio quei 15 euro al mese. Ecco, 8 miliardi, 9 miliardi, 20 miliardi da tagliare il bilancio dello Stato sono una scelta politica, perché significa fare una valutazione su un settore piuttosto che sull'altro. Se la politica torna a fare il suo mestiere, credo che sia meglio per tutti, a partire da chi dovrebbe rappresentare i sogni delle persone, cioè i politici. Ma sulla politica dei tecnici ci arrivo tra un attimo, ma intanto aperte, libere e anche di coalizione le primarie, cioè lei vorrebbe anche Vendola, vorrebbe anche Di Pietro, vorrebbe aperta oppure solo del PD? Questa storia della coalizione secondo me fa addormentare gli italiani. Se facciamo degli esempi concreti ci capiamo. Oggi una persona che sta nel centro-sinistra si riconosce in Pisapia o in Zedda, che dico il sindaco di Milano o il sindaco di Cagliari, che pure non sono due sindaci del PD, no? Sono due sindaci di SEL, del partito di Vendola. Sì. Se però inizia a dire che ci vuole una complicata alchimia politica per cui tiene insieme dei movimenti, delle sigle che al 95% degli elettori non dicono niente, perché ormai gli elettori sono abituati a scegliere tra un centro-sinistra e un centro-destra, quindi io sono un fautore di un bipartitismo secco, senza andare a inventarsi le sigle, i partitini e i movimenti, le liste civiche e tutto il resto. Bene, se ci fosse un chiaro schieramento da una parte o dall'altra, questo aiuterebbe. Quindi, per rispondere alla sua domanda, a me non interessa quali sono le sigle che partecipano alle primarie. A me interessa che tutti quelli che credono in un centro-sinistra abbiano il coraggio di candidarsi, poi è evidente che le coalizioni le fai con chi è credibile. Sì. Perché Prodi è andato a casa 2 volte perché ce l'abbiamo mandato noi. La sinistra si è divisa, quindi se devi fare l'accordo con gente che il giorno dopo ti spara alzo zero contro, ma lasciali a casa. Io a Firenze abbiamo rotto con tutta la sinistra radicale, mica per cattiveria, ma la sinistra radicale, se pensa che si debba vivere di ideologia, la facciano pure, fanno senza di noi e noi governiamo tranquilli nel nostro piccolo, una città per tenuta politica. Senta, Monti allora, da quanto ho capito, non è per lei un tecnico, è un politico vero e proprio, tutto tondo. Ma Monti sta facendo il presidente del Consiglio, che non è propriamente il rettore della Bocconi, quindi è chiaramente un politico. Più sta facendo delle scelte, alcune delle quali sono talmente forti e impattanti che uno si domanda: beh, perché non l'hanno fatto gli altri? Quando abbiamo detto della riforma delle pensioni, che abbiamo detto una cosa che è banale, si vive di più, è giusto stare un pochino di più a lavorare, purché lo Stato funzioni meglio, perché poi il cittadino è sempre disponibile, secondo me, a fare qualche sacrificio. Cioè l'idea è: gli italiani non vogliono fare i sacrifici. No, gli italiani sono disponibili a condizione che ci sia un ritorno, e il ritorno è uno Stato che funzioni meglio. Monti da questo punto di vista è chiaramente un politico, sta facendo scelte politiche, le sta facendo in alcuni casi secondo me molto condivisibili, in altri un po' timide, Ma è quello che è evidente è che nel 2013, nel momento in cui si va alle elezioni, io sogno un paese normale nel quale ci sono due schieramenti diversi che si contendono la leadership e poi il giorno dopo non si sparano al suo zero. Però non mi piace l'idea che in campagna elettorale magari uno si spara al suo zero e poi il giorno dopo si mettono tutti d'accordo per avere lo stesso candidato che hanno già deciso prima. Ricorda la pubblicità di 15 anni fa, se sono poi due schieramenti, perché pare che Monti ci stia prendendo gusto, l'idea che invece Monti possa continuare, lei come la vede? Se Monti vuole continuare è una cosa, Monti diciamo è un, come si dice in questi casi, è un punto di riferimento straordinario per il paese, davvero. Chiunque di noi vada all'estero sa che gli investitori internazionali, sono venuti recentemente una banca d'affari importante a Firenze, non c'era uno che non fosse entusiasta di Monti. Per cui Monti è sicuramente un punto di riferimento. È chiaro però che se deve rifare il Presidente del Consiglio deve essere votato, perché non è che possiamo dire che il Presidente del Consiglio da qualche anno in Italia non si vota più, ma allora, il Presidente del Consiglio va votato e deve incarnare, magari anche entusiasmare gli italiani, perché no, non soltanto rappresentare un elemento di sicurezza. Dopodiché Monti potrà fare sicuramente altre cose, oppure se vuole si candida e vediamo se ha i numeri per convincere gli italiani. È così il gioco della politica. No, ma certo, ma visto che tra l'altro è epoca di voti, tutti danno i voti, lei che voto dà? Mi pare abbastanza positiva a Monti, che voto darebbe? I politici bisognerebbe che smettessero di darmi i voti e iniziassero a prenderli. In Parlamento c'è un sacco di gente che i voti non li ha mai presi, neanche in condominio, perché c'è una legge elettorale che sarebbe il vero elemento da cambiare, per cui questi si divertono a dare i voti sulla stampa e non prendono i voti tra A proposito della legge elettorale, visto che se ne parla oggi, lei ecco, è per le preferenze, ritorno alle preferenze o no? Perché il PD ha detto no, oggi Franceschini ha detto per carità le preferenze no. Io non sono innamorato di una legge elettorale piuttosto che di un'altra, sono innamorato di alcuni concetti. Il primo, bisogna scegliere il proprio candidato leader, ma anche il proprio parlamentare, perché se lei va in Parlamento domani mattina e poi eletto con il centrodestra passa con il centrosinistra o viceversa, se io so chi è, l'ho votata, magari ho partecipato a un evento di campagna elettorale, ho comunque un rapporto diretto con lei, posso tranquillamente prendermi il lusso di chiederle spiegazioni, magari di insultarla, perché no, di avere delle richieste da farle. Lei in qualche modo ha preso la delega del mio voto e la sta utilizzando come crede. Bene, allora il rapporto diretto tra parlamentare e elettore è fondamentale. Sì. Si può avere in due modi. Uno, attraverso il collegio. Però il collegio uninominale, cioè come era prima, con la legge maggiori, con il cosiddetto Mattarellum. Io sto in un collegio più o meno di 100.000 abitanti ed ho un rapporto, ovviamente se lo voglio, se lo cerco, con il mio parlamentare. E il collegio va benissimo per avere questo legame diretto. Se non c'è il collegio, meglio le preferenze che il sistema attuale. Quindi non sono un appassionato né delle preferenze né del Basta che si possa collegio. Scegliere, basta che sì, si possa scegliere. Però posso dirle una cosa, perché poi se no alla fine veramente diventiamo antifasici tutti. C'è un meccanismo di legge elettorale che funziona in Italia, uno solo, che è quello della legge elettorale dei sindaci. Magari uno non accetta il suo, magari un elettore di Firenze che ha votato contro di me è dispiaciuto che io abbia vinto, però ha un punto di forza, cioè che un'ora dopo aver chiuso i seggi, al primo turno o al secondo turno, io sono uno di quelli che non ce l'ha fatta al primo turno, che è andato al ballottaggio, un'ora dopo che abbiamo chiuso i seggi sappiamo che Matteo Renzi, piuttosto che Alessandro Vina, piuttosto che un altro nome, faccia lei, è il sindaco di quella città. Ci sono dei consiglieri comunali eletti, in questo caso con le preferenze, quindi con un rapporto diretto con la propria base elettorale, e questi consiglieri comunali non fanno gli inciucetti di palazzo per cui mandano a casa, per cui cambiano il sindaco. Possono al massimo mandarlo a casa, se il sindaco non si comporta bene, o controllarlo dall'indirizzo, votargli il bilancio, eccetera. Insomma, quella è una legge, è un tipo di elezione che si potrebbe mutuare anche a livello nazionale. È l'unica legge che funziona. Io non capisco perché questi scienziati continuino a inventare dei meccanismi assurdi, dal porcellum al provincellum, dove lei pensi al provincellum, è l'unica legge elettorale in cui non si sa chi va in Parlamento, cioè c'è un collegio, è divisa in collegi, però se lei arriva primo in quel collegio non è detto che lei entri, ma magari se lei arriva settimo, ma di un partito che è un partito, chiedo scusa per l'espressione, di un partito sfigato che soltanto in quel collegio va forte, il primo eletto in quel, o meglio il primo votato, il più votato in quel collegio non passa, e il settimo sì. Perché si debba ridurre a una sorta di gratta e vinci l'elezione in Parlamento. Faccia una legge semplice: lei ha vinto le elezioni, governi, Lei è diventato consigliere comunale con i voti della gente. Bene, quindi su questo io non capisco perché il PD e gli altri non convergono subito sull'unica legge del... Vediamo se l'appello di Napolitano giochiamo la semplice, aiuta. Questo è il concetto, facciamo calcisticamente parlando, facciamola semplice, giochiamola con i passaggi corti, non mettiamoci in come la Spagna. Senta, le fa male più l'accusa di essere, di voler prendere i voti di Berlusconi, dei berlusconiani, o di aver preso 70.000 euro da Lusi? Ormai sono abituato a tutte. Allora, la vicenda di Lusi è molto semplice, è una vicenda che ci porteremo dietro credo per i prossimi 6-7 anni. Io so perfettamente che per la mia campagna elettorale non un euro è arrivato dalla Margherita e quindi dal senatore Lusi, e lo dico senza alcuna preoccupazione, perché quei soldi, quei denari ovviamente legittimi e del finanziamento pubblico, noi li avevamo chiesti per la campagna elettorale. Cioè, essendoci dei denari per la campagna elettorale sia alla PD che alla Margherita che ai DS, avevamo chiesto un contributo. Possiamo dire con molta serenità che non ce l'hanno dato, ma se ce l'avessero dato li avremmo presi volentieri. Cioè, non ovviamente soldi per legali, certo. Che è chiaro, stiamo parlando, perché poi questo tema di dove sono andati quei denari legali sta oscurando il fatto che il senatore Lusi si è comprato una casetta in Canada, come nelle canzoncine, si è fatto un po' di investimenti per i fatti suoi, portando via dei denari dalla cassa della Margherita. Ma per quello che ci riguarda, che mi riguarda personalmente, la mia campagna elettorale non ha avuto un centesimo di finanziamento dal finanziamento pubblico, e lo dico sapendo che se me li avessero dato li avrei presi volentieri, anzi mi avrebbero anche fatto comodo, perché ci abbiamo dovuto fare un mutuo alla fine. Io ho incontrato Lusi una volta nel suo studio e mi ha spiegato che quella fattura che gli chiedevamo di voler pagare, cioè, non poteva pagarla, e beh, miei amici come prima. Mi dica un'ultima cosa come flash: l'hanno accusata di avere fatto, visto che lei è a capo anche è vecchia, visto che l'hanno accusata anche sul giornale di aver fatto un buco milionario al Maggio Fiorentino, dove ci sarebbero stipendi. Siamo alle barzellette, però. Perché? Ma siamo alle barzellette perché se ragioniamo di cose concrete, guardiamo i numeri. Tra l'altro noi abbiamo messo online tutte le cose, tutte le cifre, un processo di open government su cui non la tedio adesso, ma insomma, se uno vuole informarsi su come è andata la gestione Renzi in comune piuttosto che in provincia prima, digita su internet e va a vedere i dati veri. Allora, il Maggio Musicale Fiorentino l'abbiamo preso con un debito di 27 milioni di euro, ok? E lo stiamo portando al pareggio di bilancio, così come abbiamo fatto con l'azienda di trasporto, e lo facciamo in una cornice nella quale abbassiamo le tasse ai fiorentini, perché l'addizionale IRPEF, unica città, è passata dallo 0,3 allo 0,2. Sul Maggio cos'è accaduto? Come in altre fondazioni lirico-sinfoniche, si è pensato di assumere troppo nel decennio che 2000-2010. Sì. Si sono assunte 120 persone in più di quelle di cui c'era bisogno, così come c'è 150 amministrativi in più all'azienda dei trasporti, e potrei farle altri elenchi. Il rigore e la serietà di un buon amministratore porta a dire che, facendo molta fatica, questi conti si pagano, perché non si lascia da pagare il conto a quelli dopo. Come in tanti L'eredità che si è trovata. Ma se lei guarda, basta vedere i dati. In questi anni abbiamo aumentato gli ingressi del fundraising, abbiamo diminuito le spese, abbiamo aperto una procedura di cassa integrazione con il dissenso di alcune associazioni di sindacati, comprensibile, perché andare in cassa integrazione non è mai bello, però sono i soldi del cittadino, non sono i soldi di Matteo Renzi, e quindi i soldi dei cittadini dobbiamo tenerli di conto. In più abbiamo aumentato come contributo alla cultura dei soldi da parte della città di Firenze, perché pensiamo che una città come Firenze debba investire sulla cultura, però facendo attenzione al dato economico, le dico l'ultima cifra, il Museo di Palazzo Vecchio, che è passato da 380.000 a 508.000 visitatori, è un museo che adesso, con le nuove aperture a partire dalla Torre di Arnolfi, fa break even, cioè apre la notte, apre la torre, fa break even e inizia a guadagnare sulla cultura. È un modo per dire che se vogliamo misurarci sui risultati amministrativi miei o di altri, oggi con il sistema di trasparenza che fortunatamente la vita amministrativa di un sindaco richiede, non c'è modo per truffare, non c'è modo per ingannare. Per ingannare nessuno. La ringrazio, buona giornata. Lo stesso Roberto Saviano, che ha lanciato questo argomento, ha detto che è un argomento in Italia impronunciabile, quello della legalizzazione delle droghe leggere, l'idea di permettere allo Stato di controllare la produzione, la distribuzione delle droghe. di alcuna tipologia di droghe, per togliere anche terreno fertile così alla criminalità organizzata, perché, come ha scritto lo stesso Saviano, qualcosa di sbagliato nelle politiche unicamente repressive riguardo alle droghe deve esserci, se in tanti anni non c'è stato miglioramento ma tanti passi indietro. Così rilanciava sull'Espresso e ha rilanciato un po' il dibattito in Italia. Saluto il senatore Carlo Giovanardi, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro autore della legge ancora in vigore, quella la Fini-Giovanardi, nota sulla sì. questione delle droghe. Saluto anche Marco Taradas, che è consigliere regionale in Toscana del Popolo della Libertà, siete dello stesso partito, ma Taradas ha anche una storia radicale alle spalle, i radicali sa, sono tra gli antiproibizionisti. Taradas, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Giovanardi, l'idea di legalizzare le droghe, lei è impronunciabile davvero questo discorso in Italia? Sarebbe un grande favore fatto alla criminalità organizzata, che naturalmente è dal punto di vista culturale, dal punto di vista di fatto, goderebbe di una situazione nella quale sostanze oggi micidiali, come chiunque conosce le neuroscienze sa, verrebbero in qualche modo sdoganate, come propedeutiche poi alla cocaina, all'eroina, di cui non ho sentito chiedere la liberalizzazione per fortuna. In una realtà, come tutti i rapporti al momento dimostrano, non nelle chiacchiere e nelle bugie, nella realtà che c'è un calo sensibile del consumo di droghe nel nostro paese, compreso la cannabis. Però lei ribalta la situazione, cioè dire sarebbe un favore alla criminalità, anche, anzi, altro che togliergli il mercato nero, le narcomafie. Ma voi pensate, ci vuole veramente una idea fanciullesca, quella di pensare che la drangheta, la camorra, la mafia si combattono o scompaiono legalizzando le droghe leggere, come se la mafia, la drangheta e la camorra non fossero organizzazioni che vivono di illeciti dalla corruzione, alla concussione, agli omicidi e ai traffici d'organi, le cose più immonde. Quindi dice adesso noi gli togliamo via la cannabis, attenzione, in sì. una realtà in cui già il consumo è depenalizzato, perché in Italia chi consuma cannabis al massimo rischia il ritiro della patente, ma di più, dove chiunque può andare in farmacia con ricetta medica e comprare medicinali a base di cannabis, certo per ragioni curative, non può farlo fumarsi gli spinelli per diletto o come questa campagna martellante di rendere legale la coltivazione della cannabis. Non per ragioni mediche. No, questo sì, però mi scusi, cioè che la criminalità che venga tolta una fetta di mercato nero, diciamo, la criminalità, se lo Stato si prendesse carico invece di commercio e distribuzione, questo è un dato abbastanza banale, cioè incontestabile, allora, diciamo. Incontestabile che i prezzi e i costi sanitari per rimediare, come chiunque conosce le comunità di recupero e i SER, i danni provocati dall'uso della cannabis, metto lì anche gli incidenti stradali, sì, sì. cioè le persone che perdono la vita quando gli ubriachi o le persone sotto l'effetto della cannabis, riscorati in Calabria, quello che ha fatto Filotta ammazzando 7 ciclisti al mattino che guidava l'auto sotto l'effetto cioè, della cannabis. Ci sarebbero questi costi sociali, medici, allora, da sopportare. Costi sociali enormi, giganteschi. Visto che le sostanze attive oggi della cannabis sono micidiali, non sono più quelle di una volta, come tutta la scienza medica dice, come dicono i tossicologi, sì. che lo Stato si mette a legalizzare sostanze micidiali fuori, ripeto che è già possibile in Italia, per ragioni curative, sotto ricetta medica. Questa è un'opposizione sicuramente concreta sulla quale Marco Taradas, cioè dice Giovanardi, ma che legalizziamo un qualcosa, certo togliamo dei soldi magari alla criminalità organizzata, però quale costo sociale dobbiamo sopportare poi per uno Stato che lui stesso diffonde poi e commercializza le droghe? Ma guardi, l'argomento è questo: oggi in Italia e nel mondo non si consuma cannabis, e allora se non si consuma cannabis, chiaramente introdurlo attraverso il mercato legale sarebbe qualcosa di profondamente sbagliato. Non c'è cannabis al mondo, e allora perché introdurlo attraverso il mercato legale? Se invece per caso lei o gli ascoltatori sanno, hanno avvertito l'idea che ci sia un certo consumo di cannabis, di eroina, di cocaina, di anfetamine in questo paese, negli Stati Uniti, in Germania, in Messico, eccetera, se per caso questo avviene, allora bisogna porsi il problema: qual è il modo migliore per contrastare da una parte gli effetti dell'uso, dall'altra parte gli effetti della produzione, della vendita clandestina? Questa è semplicemente la domanda. Poi io non sono d'accordo con Giovanardi su tante cose, lui usa a proposito degli Spinelli, l'aggettivo micidiale. Mi sembra francamente esagerato. Rispetto ad altre droghe, sì, sono d'accordo. Però il problema della legalizzazione non riguarda la sostanza, perché la sostanza c'è già. Riguarda come fare in modo che l'uso e la diffusione di questa sostanza facciano meno male di quanto non fanno oggi. Questo è il problema. Lei contesta quindi questa non divisione che fa Giovanardi, che fanno anche molti scienziati, tra droghe leggere e droghe pesanti? Lei invece va fatta? Rispetto al problema della legalizzazione, io sono contrario a questa distinzione, perché secondo me la proibizione, vale a dire la gestione diretta da parte delle organizzazioni criminali internazionali delle droghe, di qualsiasi droga, è molto più dannosa che un controllo da parte dello Stato. In questo senso sono statalista, ma perché io credo al libero mercato, ma al libero mercato regolato attraverso lo Stato. Il laissez-faire non è una cosa liberale, ci vogliono sempre delle regole che tutelino il consumatore e la concorrenza. Se noi lasciamo 'Ndrangheta o prima i cartelli della Colombia, oggi ai narcotrafficanti messicani la gestione di queste sostanze, avremo corruzione nella società, migliaia di morti. In Messico negli ultimi 5 anni ce ne sono stati 30-40 mila di morti, e avremo tutto ciò che la sostanza proibita comporta anche in termini di danni alla salute. Mi faccia dire che io scopro oggi che Giovanardi sa che in Italia è possibile usare medicamenti derivati dalla cannabis per chiunque. Francamente, noi abbiamo votato in Toscana una legge che rende più vicino al malato di malattie grave, la possibilità di fare ricorso a farmaci derivati alla cannabis, ed è successo un grande sconquasso politico. È per una medicina ci sono state le ribellioni per l'uso terapeutico. Si può fare. No, ma questo per dire che, come dice Saviano, è un po' impronunciabile questo argomento, cioè se ne parla, però è una cosa che suscita un po' prese di posizione, anche a volte preconcette. C'è da dire che Saviano partiva dal ragionamento di quello che sta succedendo in Uruguay, dove si è pronti ad adottare una legge che regolamenti proprio il commercio della marijuana, con un controllo statale ovviamente su produzione e distribuzione. Comunque, legalizzare le droghe leggere, se c'è questa divisione che già da molti è contestata. 800 24 00 24, io so che ci ha chiamato Mario Benusiglio. Buongiorno Mario. Buongiorno, ecco, Mario Benusiglio, che è il nostro anche amico di Radio 24, ci ascolta, forse lo ricordiamo, il padre di Giorgia Benusiglio, che anni fa, mi aiuti Mario, non ricordo in che anni fa, prese una mezza pasticca d'ecstasy e ha avuto la vita segnata. Oggi Giorgia è una ragazza che va nelle scuole insieme al padre Mario per sensibilizzare i ragazzi sui rischi della droga. Che ci voleva dire Mario? Dunque, saluto i vostri ospiti ovviamente. Per quanto concerne Taradash, insomma, comprendo la sua, una battaglia storica, è quasi, non so come dire, cioè, insomma, è veramente molto storico, quindi è anche molto antica. Per quanto scrive e dice Saviano, ovviamente, insomma, come uomo pubblico di televisione, che insomma è molto visibile non solo per i nostri giovani, trovo pericolosissimo questa affermazione, anche perché frutto non certamente di conoscenza tecnica sull'argomento, in quanto è arci noto che se negli anni 70 una dose, cioè un hashish, uno spinello era veramente equivalente a una birra, definirlo oggi è un'informazione scorretta, sbagliata, fuorviante. La definizione e la divisione fra droghe leggere e pesanti oggi non ha senso per chi abbia studiato o studi l'argomento e vada sul campo, cioè nelle scuole, a verificare ciò che quindi succede. Quindi lei contesta ad esempio questa divisione droghe leggere e droghe pesanti, è un discorso pretestuoso metterla su questo piano? Ma non solo io, lo contestano i medici, i patologi, coloro che si occupano, come ci occupiamo noi, sul campo del problema. Per quanto concerne Ingroia, che ieri alla Zanzara ha dichiarato analoga cosa, beh, Ingroia lo vedo solo come uno schieramento ideologico politico. In merito a quello che diceva Giovanardi dei costi sanitari, è pazzesco quello che potrebbe succedere effettivamente con l'utilizzo continuo delle droghe, perché i costi sanitari a carico di tutta la nazione sono definibili nel futuro mostruosamente più elevate. Ultima cosa, per l'uso medico di cui se ne è parlato, Israele ha dimostrato che per i malati terminali effettivamente è molto utile, ma mi sembra un discorso molto diverso dal contesto di questa mattina. Dell'autoconsumo. Grazie a Mario Benusiglio. Non so, Taradas magari replicherà su questo prima, però vorrei tornare a Giovanardi. Senta, ma Giovanardi, allora non c'è una grande ipocrisia sull'alcol, sul fatto che allora bisognerebbe anche quello provoca molti danni sociali legati soprattutto all'uso anche della macchina associata all'alcol. Perché sull'alcol non c'è questo discorso? Non c'è il discorso di renderlo illegale, per esempio. Anzi, discorsi in passato hanno portato, sappiamo che cosa, nella Chicago di Al Capone. L'abuso dell'alcol è illegale, viene ritirata la patente, ci sono sanzioni drastiche rispetto a chi abusa. Sì, ma non il consumo, non il consumo. Il consumo, ripeto, in entrata, il consumo è già depenalizzato. Chi si fa una canna o anche si droga di cocaina, sì, rischia. No, però mi scusi Giovanardi, io una bottiglia di whisky entro al supermercato e la compro. Una canna devo andare un po' nascosto a cercare qualcuno che me la dà, uno spacciatore. Prima, mentre un mezzo bicchiere di Lambrusco non uccide nessuno, anzi per i maggiorenni fa bene alla salute, una pastiglia di ecstasy è sufficiente per ammazzare un ragazzo. La cannabis oggi, basta vedere le neuroscienze, i cervelli, se un ragazzo incomincia a provarla a 14 anni, arriva a 18 anni che c'ha il cervello che ha tutta una serie di funzioni. Questo sì, però Giovanardi, ripeto la domanda, io posso entrare liberamente, io, Alessandro Milan, comprarmi 7 bottiglie di whisky, scolarmele e mettere... Un ragazzo non può entrare a fare... Un diciottenne, compro 7 bottiglie di whisky, me le bevo o dalla dispensa del nonno a casa e poi mi metto al volante, mentre se devo... È un abuso. Ma certo, ma se invece voglio farmi 10 canne o prendere la cocaina, devo andare da uno spacciatore... Deve andare, perché abbiamo appena firmato a Washington con l'amministrazione Obama e poi a Stoccolma recentemente con tutti i paesi dell'ONU una grande azione di prevenzione, di educazione rispetto ai pericoli della droga. Noi per fortuna, che ne dica Taradas, con questa vigilanza internazionale manteniamo in Italia i cronici da droga, quelli che vedete da PCR, quelli che hanno la vita distrutta, lo 0,1% della popolazione, vuol dire che il 99% non lo è. Però su questa differenza io non mi sono spiegato, cioè per acquisire una droga io devo fare un qualcosa di losco. Se noi portassimo la droga come il tabacco o come l'alcol, anche quello da messa del mattino del prete nella nostra cultura, se noi la droga la rendessimo legale, altro che 2-3% che abbiamo in Italia, cioè il 97% in Italia non si è mai drogato, porteremmo il livello dell'uso della droga, ideale per le conseguenze che ha, al 20-30%. Allora questo, Taradas, risponda a questo, altro che disincentivare l'utilizzo della droga, una sorta di legalizzazione, o la legalizzazione porterebbe al maggior numero di persone a utilizzare le droghe, con i costi sociali a cui si faceva riferimento. Guardi, non mi pare che nei momenti in cui si è allentato il maglio della legge questo è avvenuto. In realtà io sono convinto che il principio di precauzione, se viene adoperato in modo generico, impedisce la vita delle persone, perché allora non si può fare praticamente niente, non si può tentare di risolvere i problemi che abbiamo, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà andrà peggio. No, non è così, va malissimo già adesso, va malissimo riguardo al consumo clandestino, che comporta enormi rischi, anche penali, perché Giovanardi dice nessuno finisce in galera, no, invece moltissimi ragazzi finiscono in galera perché il giudice ritiene che quella quantità di marijuana che aveva superava il consumo personale, quindi il rischio di andare in galera c'è, comunque il rischio di avere enormi problemi che a una certa età diventano veramente problemi che ti infliggono le pene dell'inferno ingiustamente attraverso il ritiro della patente eccetera eccetera. Io sono d'accordo, ritiriamo la patente se uno si trova al volante ubriaco di qualsiasi sostanza, si ritira la patente, sono d'accordissimo, Ma un conto è prendere un ragazzino, trovarlo con lo spinello e ritirargli la patente e portarlo davanti a un ufficiale dello Stato e spaventarlo in questo modo, ma è un tipo di educazione che dobbiamo dare. Comunque, se è al volante sì, però, perché esatto, insomma, mette a rischio. Se è al volante sì, questo deve valere per tutte le sostanze, indipendentemente dal fatto che siano considerate legali o illegali. Va bene, io qui mi devo fermare. Vi ringrazio Carlo Giovanardi e Marco Taradas per essere stati con noi. Seguiteci anche su Twitter, @AlinoMilan sono io, oppure @24Mattino, e anche su Facebook, la pagina è quella 24Mattino. Saluto Alessandro Longoni in redazione con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Domani alle 7:20.